Radio 24 Reportage. Za'atari, la città dei profughi, di Jacopo Matano. Pomeriggio di mercato al campo di Za'atari, la via delle botteghe l'hanno chiamata Champs-Élysées, ma Parigi è lontana, siamo nel deserto giordano a 70 km da Amman, a 10 dalla Siria e dalla sua guerra. Za'atari, immensa tendopoli delle Nazioni Unite con i suoi quasi 100.000 rifugiati, è oggi il più grande ricovero organizzato del conflitto siriano, il secondo campo profughi del mondo per dimensioni. Da 2 anni, dall'inizio della guerra civile tra le forze governative fedeli a Bashar al-Assad e i ribelli, arrivano qui da tutte le città della Siria per sfuggire ai bombardamenti e alle violenze. Il lavoro dell'Alto Commissariato per i Rifugiati e delle ONG impegnate nel campo inizia dall'accoglienza. Loro arrivano, passano per una registration area, dopodiché si fa un assessment, diciamo, di quali sono le loro vulnerabilità, quali sono le loro special needs, eccetera, e vengono censiti all'interno del campo. Gli si dà un numero, quindi una ration card. Di solito il loro numero è associato alla ration card del WFP, del World Food Program, programma alimentare mondiale, che si occupa della parte alimentare. Dopodiché gli viene assegnato un plot, che è uno spazio di terra, e una tenda. Poi piano piano, appena si hanno disponibilità, si iniziano a dare i container. Come vedi, molto spesso loro tendono a ricreare il loro nucleo familiare associando un container con una tenda, con un'altra tenda, con un'altra tenda. Si sono fatti la loro casa con al centro un piccolo spazio, un piccolo cortile, diciamo. Lorenzo Muciaccia lavora per la Fondazione per la Promozione Sociale della Cultura, una ONG spagnola che si occupa di disabili. Per molti rifugiati al dramma della guerra si aggiunge quello dell'invalidità. Al container ambulatorio vediamo arrivare Ahmed, 30 anni, nel passeggino che spinge per le strade sconnesse del campo. C'è il figlio di 5. Il bambino in questo caso è bloccato in una determinata maniera e quindi non può utilizzare una sedia a rotelle qualsiasi, ma deve e dovrà utilizzare un determinato tipo di sedia a rotelle che noi forniamo personalizzata. Vengo dalla regione di Damasco. Ho lasciato la mia casa 9 mesi fa, quando Assad ha iniziato i bombardamenti con le armi chimiche nella nostra zona. Abbiamo attraversato il deserto assieme ai beduini e passato il confine. Poi siamo arrivati qui con degli autobus. Mio figlio l'ho portato sulle spalle per tutto il viaggio, fino al campo. In molti casi la disabilità è un effetto del conflitto che da luglio del 2012 infiamma la Siria. L'ultimo bollettino della Croce Rossa Internazionale parlava di 500.000 feriti. I morti, l'ONU ha smesso di contarli lo scorso gennaio a causa dell'impossibilità di verificare le fonti. Le amputazioni che vediamo a Za'atari sono dovute ai missili e alle esplosioni nelle zone urbane, ma nel campo non c'è solo questo, come ci spiega il capo missione della Fondazione per la Promozione Sociale della Cultura, Marco Rotunno. C'è un settore particolare di disabilità che sono i bambini affetti da paralisi cerebrale che arrivano da zone rurali della Siria dove questa malattia genetica è molto diffusa. Quindi ci occupiamo praticamente di questo settore. Sono bambini che hanno difficoltà a muoversi, in alcuni casi anche gravi, e sono per ora 150 nel campo. Questi casi di paralisi cerebrale, che come si dice, non sono più grandi di 18 anni, sono dei casi che già in una situazione normale sarebbero più o meno isolati, perché la persona non può uscire di casa a meno che non abbia un supporto tecnico, e queste persone vengono da zone povere. E nel caso nel campo dei rifugiati praticamente sono rinchiusi nella loro tenda o nel loro container e sono ancora più ghettizzati, diciamo, quindi è una situazione che si esaspera. La La FPS è solo una delle decine di realtà che popolano l'immensa area di Zatari. Dalla cura della salute alla distribuzione del cibo, qui tutto è organizzato grazie al lavoro delle agenzie dell'ONU e delle ONG, 26 sono le principali, e gestito in modo capillare. Ma il sostegno della comunità internazionale non basta ad alleviare gli animi dei profughi, esasperati dai traumi della guerra, dall'impossibilità di muoversi e di lavorare, da una convivenza forzata in spazi ristretti, dalle notizie, il più delle volte tragiche, che arrivano da casa. L'audio che proviene da YouTube è quello dell'ultima rivolta, quella dello scorso 5 aprile. Durante la violenta contestazione scoppiata a Zatari, un giovane siriano è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco proprio davanti all'ingresso principale. Le autorità giordane hanno negato ogni responsabilità. Ora, nel luogo della sommossa, ci sono i resti delle tende date alle fiamme. There's a trust between each other because the refugees know that the Jordanian and other organization trying to help them. C'è fiducia reciproca tra rifugiati e giordani perché sanno che assieme allo staff internazionale stiamo cercando di aiutarli, ma accade spesso, una volta ogni 2-3 mesi, che scoppino delle liti o delle rivolte. Ci spiega Nizar Yusuf, 23enne fisioterapista. Dagli scontri del 5 aprile la polizia giordana che pattuglia il perimetro del campo gira con le armi ad altezza uomo. Ancora Marco Rotunno. Il campo alla fine è una realtà abbastanza ghettizzata, le ONG stiamo provando a dare dei servizi, a farli sentire a casa loro, perché c'è gente che sta lì da quasi 2 anni, da luglio 2012, si cerca di fare attività ricreative eccetera, questo è anche uno dei nostri obiettivi a breve termine, però comunque loro vivono in un campo rifugiati, non sanno quando torneranno, la situazione si sta allungando sempre di più, il conflitto, e quindi sono sempre più esasperati, quindi cercano di scappare o se la prendono con le agenzie che stanno magari facendo una distribuzione, quindi ovviamente gli animi sono abbastanza tesi. Nel souk del campo si trova di tutto, dalle lavatrici ai videogiochi. Appena un anno fa Zatari contava 140.000 persone. Negli ultimi mesi in molti sono fuggiti per aggiungersi all'oltre 500.000 di profughi sparsi nella città giordana in cerca di lavoro e di fortuna. Accogliere le vittime della guerra in continuo aumento, ma anche disinnescare possibili conflitti sociali sul proprio territorio è l'obiettivo del governo giordano, che assieme all'UNHCR sta aprendo un nuovo campo profughi ad Azraq, 110 km ad est di Amman. La nuova struttura accoglierà 130.000 persone e sarà organizzata in distretti e dotata di pannelli solari per produrre energia. Intanto, per limitare le fughe da Zatari, i profughi vengono stimolati a realizzare iniziative commerciali. A breve sarà aperto un supermercato, le razioni di cibo lasceranno il posto ai voucher e poi alla moneta. Dall'emergenza, ci spiegano, si passa allo sviluppo. Zatari diventerà una vera città, la quarta più grande della Giordania. Quali sono le prospettive del campo? Le prospettive del campo sono di lunga degenza, diciamo, perché il campo a inizio agosto farà 2 anni già. L'80% credo per cento delle tende sono state sostituite da caravan e quindi si pensa che il campo continuerà a esistere più avanti, è stato diviso in unità amministrative, quindi si sta proprio pensando a una gestione a livello proprio comunale. Chi fugge da Zatari cosa fa? Non hanno possibilità di lavorare perché gli è stato impedito, non hanno il permesso di lavoro. E ci sono tantissimi casi di problemi di salute, anche gravi, mogli incinte senza mariti, bambini. A Zatari credo il 60 o più per cento sono bambini, dai 0 ai 10 anni. Sono arrivati tanti anziani e i servizi sanitari, scolastici, eccetera, eccetera, sono tutti collassati praticamente. Qual è il futuro di queste persone? Non si sa, la Giordania ha richiesto un aiuto economico che in questo momento gli si sta dando, però per esempio a livello di acqua già ce n'era pochissima, perché siamo in Giordania che è il quarto paese più secco al mondo e quindi servirà un aumento ovviamente di servizi sia di educazione che di salute che di distribuzione di cibo. Finché non si vede la fine del conflitto? Finché non si vede la fine, sì.